a questo. Dai un po' su le mani. Ci sintoniamo, sintonizziamo nella frequenza capitolina M2O. Come spegni sta musica? Ti cerco dentro di me. Sei tu la ragione. Sei l'emozione per tutto ciò che vive fuori di me. La cosa? Musica. Un po' qua te. Chi viaggia poco rimani vicino, gira. Ma com'era chi viaggia poco? Chi viaggerà poco resterà vicino. Chi viaggia poco resterà piccino, per cammino del Gigi D'Agostino. Dai è poco sta cassa. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita, forse quel giorno era impazzita. Bello questo! Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. Bella Gigio! E se lo fa, sa quel che fa. Chi lo sa, quando è che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie. Chi lo sa, quando è che sbaglio, quando sto solo o con mia moglie. Chi lo sa, quando è che è meglio, saper capire cos'è uno sbaglio. Ma nessuno sa qual è la soglia per poter dire diamoci un taglio. Chi lo sa, se lasci un taglio, non sei frutto del proprio orgoglio. Non so più qual è il mio meglio, se non si scioglie questo groviglio. Non so più qual è il mio meglio, se non si scioglie questo groviglio. Solo un abbaglio, non c'è canzone senza lo sbaglio. Ecco qua, va. Il miglior modo per fuggire dalla realtà, per fuggire dalla realtà, per fuggire dalla realtà, è l'arte. Il miglior modo per avvicinarsi alla realtà. Gigi D'Agostino. Non vedi, ma che fatta di questa? Hai visto, dall'altra parte fanno tutte cose veloci, invece qui si fa lento, violento, quello vero. M2O, musica allo stato puro, da ripire sicuro. È un mondo che spesso non ti ascolta, che ti nega la gioia un'altra volta. L'importante è prepararsi. Falling in like a goat, don't need your love to feed my pain soul. Dreaming in like a goat, what is love to teach my baby so? And I cry for my whole life to grow my baby so. To grow my baby so. like a go-go, need your love to feed my baby soul. Sai che un picci ce fai con i mischi sonori, sì. Andiamo a 130 e vai. Folclorista, stai a capì. Andiamo regà. E dai e dai e boh. Sperimentazioni e robe varie. E canzoni assai frequenti. Ma sta a fa, ma sta a giocare qua. Gigi D'Agostino, mica nocioline. Dago signals in the house. It's allowed for you to bounce. Dago signals in the house. It's allowed for you to bounce. Lesson number one. Listen and repeat. D'Agostino, Gigi D'Agostino. Dai, che famo notte. Yeah. che io credo sia la verità. Sì, sì. Da, da, da, da, da. Sì, sì. Da, da, da, da, da. Da, da, da, da. Ma da Torino ci è arrivato questo? Posso una piana sigara? Antimusicale, antistandardizzare, antimusicale, antimusicale, antistandardizzare, antimusicale, antimusicale. L'elettro show di Gigi D'Agostino. Dal vivo, sabato sera 12 novembre 2005, ore 24, discoteca Big Ben, chilometro 484 Golmesh, località Lleida, Spagna. Domenica pomeriggio 13 novembre 2005, ore 18:30, discoteca Faccia, località La Pineda, Tarragona, Spagna. Giovedì sera 17 novembre 2005, ore 22, concerto gratuito in occasione del Salone dello Studente 2005, Palazzetto dello Sport, località Cade Somenzi, Cremona, Italia. Zitto zitto, quattro quattro, è arrivato come un gatto. Console, forza, tutti col folclorista, dai! Uno di qua e uno di là, dai! Ai sette, regà, tutti uniti là! C'è sta il folclorista, ma che cazzo! Stop. vogliamo. Gigi il dottore, questa è musica, non rumore. È un mondo difficile, lo so, però è meglio. We'll be right back. pubblicità. Ta-ra-ta-ta. Pubblicità. Ta-ra-ta-ta. Pubblicità. Ta-ra-ta-ta. Pubblicità. Ta-ra-ta-ta. Il programma col cuore di un bambino è il cammino di Gigi D'Agostino. Resterà piccino il cammino di Gigi D'Agostino, il cammino di Gigi D'Agostino. I'll fly with you. Thank you.